pomeriggio, non capita. È il tempo suo per andare al mare, altrimenti è un casino. Di altri paesi. più di 9. 9:20. Ah, ma già funziona tutto qua. Stiamo bene. Perfettamente. Segnale. Radio, va bene, va bene. Oh, tu sei 9, con questo barattino, sei attaccato, magari sei più alto, capito? Però con questo barattino segna 9. Non fare affidamento. Intanto adesso sono in direzione al contrario, capito? Hai sotto di spalle a me. Sono in direzione Porto Torres, capito? Ma c'era anche Antonello Pomponio, allora mi stavi dicendo. Ciao Antonio, ci sei ancora? Si è spostato un attimino e adesso non c'è qua su 10, che io vuole entrare davanti al fischio. Ho sentito un fischietto avanti, che vuole entrare sul canale 10. Immaginate che c'è un posteggio, un parcheggio per scendere a fare una passeggiata. Guarnizione, vabbè, la guarnizione che poi c'è quella normale, quella fatta col gradino. comprendi? Perché se non è molto grande va bene per la macchina mia, capito che è piccolina. Guarda qua, tu ci darà un gioco di zente, occhio e croce saranno 70 cm. Se di 70 cm arrivi sì, più di 9 sì qua. Sì, ma Ciccia non è la vita minorita, no? Ciccia è vita longa, mi compreso mai. Ciccia era 2001. Andrebbe nuova e nuova in un po' di fa. Sono in scambio davvero con l'antenna. non perdere il contatto, che non c'erano con il movimento anche di là, vabbè che già non era tanto lontano, ma comunque sia, da, cioè secondo come sia magari si sia bambino per la volontà, ci tiene bene il contatto, non riesce a ascoltare bene, o anche magari camminando un po' più basso, però non riesce a sentire tutto, capito? Però non vanno bene per l'antenne qua. Non puoi avere due sgombre so, in macchina, che cosa non è che veniva a 16 lei. Ma uno già mi ha contento di chi da minoretta, la cosa andava sicuro, non mi lontano, magari per un vita manna, tanto camminando mica si vede, sai. Funziona un attimo la meraviglia Gianluca, veramente. Funziona veramente bene. L'ultimo per la truppa. Funziona veramente bene. Che aspetta? No, io l'ho vista su internet quando è l'altro giorno. Mi pare 35 euro costa una cosa del genere. Magnetica che c'è quel tipo di attacco, come ti sto dicendo io, se non vuoi fare buchi per mettere per installare la fissa, la metti così. Però boh, non lo so, quindi che base magnetica a me non è che mi convinca la sai assai, mi. Per carità, proprio in questo periodo va a capitare se infortunio è. telefono. Allora, sono per Arianna, aspetto Arianna. Aspetta, cosa mi ha fatto a me la vincere? No, ho tutto mossegato, ma proprio in mezzo alle braccia mi ha mossegato. Mia mamma mi stava a partire sta fasciatura. Ogni tanto mi viene prurito, ma mi devo grattarsi. Comunque, c'è forse la sua piaga. No, come posso, no. Però non vorrei invece che se me l'abbia fatto quella specie di repellente che mi si è messo per le zanzare, i capataci, quello spray che vengono che se lo spazio un attimino per una carabicina di zanzare. Non mi ricordo come si chiama, è tipo Gugusta, ci hanno parlato una volta, minchia che è. Sì, è aggiuntato la bomboletta che è tipo il contenuto, se non mi ricordo se è 30, 40, 50 non c'è. Piccolino proprio sembrano di quei spray per le ascelle, no, di quei, perché 6 ore e 50, una cosa del genere. E pare ci siamo a 8 anni, una cosa del genere, è buono, cazzo, ma costa un sacco di soldi, minchia. Sì, sì, non basta che si riguarda 8 anni, a 8 anni. L'altra volta sono andato a comprarlo e non ve l'ha visto che era un'altra macca, e ho pagato così. Non so se è efficace come la ottava, se non lo vende. Lo sto provando perché se non vado a lavorare non è un bel. Non vorrei che... capito? Ma proprio non ha messo rullo e rullo, ma fa per me da un poco. Ma con un piccolo braccio all'interno, no? Tutti quando gli vado all'avventura, la buca con lo sangue, mi non piccolo piano nel chivi. Come la carrozzeria, con i fondi di carrozzeria, che ho fatto bene. accettabile, eh? Ma il microfono cos'è, non te l'ha aggiungato? Adesso tu guarda quello che c'è davanti, il tuo, immaginati tu, quello che tu fai di grigio, formato a specchio, immaginati tu, il tuo microfono, la cosa nera con la scritta, i tratti grigi metallizzati con la scritta, con la bianca nera, quella sopra, e quelle là, immaginati tu, la base e il microfono tutto in sé, soltanto, tutto fatto a specchio. Ecco. però anche con la mince non dovrebbe tanto neanche dar contatto con la bocca direttamente, capito? Comunque sia, non è che succede più tanto, lascia bullini. Una bacinellina, hanno più un po' di quella più, infatti se lo fa colorare gli indumenti, no? Dovrebbe, secondo me dovrebbe già li attacca. Io farò la prova, perché la spugna è maledetta, non è come un panno. Adesso invece lo devo respingere, non ce la fa a assorbirsi il colore. Ma bisognerebbe provare, dai. E solo con la bomboletta, un attimo, un pezzo di ganna, un pezzo di scecco, insomma che si diametro. Un pezzo di legno di seguito buoni e di pozzi. Ma infatti faccio così, capito? Se riusciamo a ordinarle quelle colorate, quella rossa, quella le faccio tutte nere e me le tengo discolte. Se vuoi guardare il computer che ti ordinarle, l'altra di la giuvisti, sono andato a cercare, non le trovo più. Su internet bisognerebbe controllare, bisognerebbe mettere si chiamano tipo parasuffio, che usano per cantare, soprattutto quelli lì quando uno non riesce a, quando fa tappu, che si sentirà proprio l'accento nell'amplifico quando canti, si sente un modo dove andare fuori a bancare a fargli, no? Quando capisce che cosa, se no si risolve benissimo con questa spugna e ti evita questo fastidio, no? di sentire il perno. Mi pare si chiama cuffietti soffi, infatti ce li ho nelle mie 60 per evitare che ci sia qualche rientro proprio in questa maniera così, capito? Però queste piccoline sono introvabili, bisogna trovarle in quelle cuffie dei cinesi, di cui io, capito? Che vanno in un microfono e vanno in una spugnetta, l'ho presa. Sì, ma a questo punto paghi 5 euro, allora sta bucando la spugnetta che avevo i buffi nel braccio. E dico con questi spugnetti anche io mi costano le luce a un euro di una buffa. Questo ancora viene di GG. Io do l'indifusione delle altre direzioni di scorta. Perché non ti spendere 5 euro, secondo me, per recuperare la spugnetta e avere questo cuffietto. Queste cuffie proprio di plastica, però che magari non utilizzi per altre cose, non ti servono per altre cose. No, ma infatti. Se non lo trovo, scendo per Daniela dai spiegi, mi prendo un paio di cuffie, quelle grandi col microfono che ce ne avevo. Capito? Io con la spugnetta la pongo il microfono. Uso le cuffie così, ma anche se dal microfono quelle vanno bene, non è un problema. Allora che c'erano, c'è anche quelle cuffie. Non mi subito di dati service, ma adesso non so se si è scassato, ma non mi ricordo che eravamo andati a prendere della roba lì, di microfoni per cantare, che è un mixer mi sembra, c'è un'unica sotto bandiera gialla, dove c'è proprio il ristorante bandiera gialla per la mieta. Ci sono diversi attività, possono piantare, no? Senza fare praticamente la scala, invece salire su, di piantare, no? Era lì così, non solo musica, non dare si chiamava. E se no chiedere un attimino lì se c'è da entrare anche nel sito, è più assorbito che ci sia. Poi per la musica è vero, viola frasso, metti tocco per la musica è vero, prodotti e tutto il che dicevo, questo va tutto di più. Anche appassionato di musica, vanno nei chili e rimane a bocca pesca, che va da mi diterre, passati in un trombino, invece di appiccare dal muro, che suoneranno i garabetti in terra, in fila, e poi praticamente i guri di terra da fatto un esilio per passarlo, tra una via, tu passi, della bomba, poi torna nella roba, della tua via, se ti fate la corsia, e poi sta per i di terra. Ah, Lucia, vabbè, passo con il 440, c'è cioè, lui, che cambia un pochino, si butta insieme, lo vuoi anch'io. E così cambio posizione, perché già hai visto come sono quel barchino, l'altra parte rimango girato, la gente che è comuto. Mi senti, sì? Cappa di Roger, dai. Ho commutato anch'io, dai. Che già è bella tiepida questa qua. Allora adesso la faccio raffreddare un po' qua. avete sconto al 100%, dai. Ok, sì, va benissimo. Due soldi sono andati, un po' di nuvole ci sono. Ma non ho visto un erato, oramai il tempo è bello stabile. Ma basta, tu non vai a avere fedì, si fa zero ormai da me, va a zero, facciamo pure il fresco un poveretto. A me piace l'inverno, se non è freddo, mi piace, però il caldo, non sai cosa metterti, Gianluca, capito? È un casino, boh. Sembra che devi camminare nudo, che è un casino. Invece d'inverno che metti tu il giubbottino, sai che non hai freddo. Di più ti copri e peggio è. Sì, è bello anche, cioè per me, ripeto, è più bello l'inverno perché anche se hai freddo una maglia in più riesci a sopportare. Di più invece di rugare, così secondo rugare come te non riesci più a stare, anche in capo quello di capo da voi la vedi. Ma poi vedo, mi dimostra quando passano le femmine, che tu li vedi tutti i canti impappucciati, con i cappotti, con le cose, poi di chi li vedi? Ah, così sì, ora sta bello. Lo so, già, no, beh, il caldo già ci vuole, il cambio di temperatura, di stagione, eccetera, già vabbè. Però sempre un casino. Ad esempio stamattina io sono uscito, non si poteva fare. Purtroppo camicia non la posso mettere perché non mi abbottonano, perché ho tutta la fascia davanti, quindi è molto larga e non abbottono, quindi sono costretto a mettere le magliette, a un braccio giuro, cioè non farvi un caldo allucinante. No, adesso ti dovresti prendere qualche t-shirt, no? O se magari devi uscire anche che non guidi, ti prendi una polo che non ci abbia però le maniche che vanno a ristringere, capito? Io per esempio se c'è una polo che c'ha il bordino che ti rende leggermente più stretto dove il braccio, invece sono quelle che sono libere, fatte tipo camicia. E infatti un braccio non lo scimolino, ce l'ho. Un braccio ce l'ho proprio attaccato alla pancia, fasciato, con la spalla tutta mobilizzata alla sinistra. C'è solo un braccio destro libero, capito? E quindi cosa fa? Metti una manica e basta. E adesso devo rimanere sempre appeso. E quindi devo andare tanto mirato, cammino a tanta ora, per fare entrare un po' d'aria, però poi sollievo, ma alla fine non è che puoi fare l'ingraziato camminando, capito? E allora stamattina sono uscito, ho ripreso le segne, ho preso un caffè e mi sono spostato in macchina. E basta, ho 2 mesi buttato a casa, ho ribaltato, che cosa fai? In giro non puoi stare, se ti trovano guidando un casino, ora mi sono entrato a casa. Come in giro già quei casi, guida li lascia. O se no, se non ti sfratti troppo, ti fa una passeggiata pure a piedi, senza magari allontanarti, via passa lontano. E andare specialmente magari la mattina un po' presto e la sera un po' dopo le 7, dai, 7 e mezza, che comunque sia il sole se ne è tramontato e non ti arriva proprio il caldo diretto, e ti fa una passeggiata, la sera. Infatti. Faremo così, Gianluca. No, infatti non sto scendendo qua sotto, non l'ho neanche a fare. A volte ci sono delle persone che conosco, metto lì a parlare, fumo una sigaretta, ma farò dentro, ma è noioso per come sono abituato io la mattina, non sono mai a casa, il pomeriggio, sono solo la sera sul parco. E fa tutto lì a casa, è una noia totale, Gianluca. Meno male che abbiamo questo divertimento qua, due chiacchiere, due gocce, sono tutta la sera buttato qua dentro, girando, facendo, ho fatto un po' di HF, un po' di V, un po' di U, poi ho chiamato sul 10, non c'era nessuno, ho sentito Antonello sul canale 5, e poi c'è entrato giù. Non manco male, infatti, da una parte già, è passato bene. E verso d'estate, è stata un po' la cagnaviera un po' a tutti, chi va al mare giustamente, magari sul tardi, la gente già c'è. Camministi già tranquilli, qui si già intendi sempre, che si travagliano e già bisogno sempre. Non vengono quelli, ma chiunque lavora o per strada o in ufficio, il lavoro è per tutti, quindi bisogna fare qualcosa di nuovo, siamo noi. Infatti domani, domani c'è una lavorativa e adesso vediamo, settimana chiamo ancora un po' male, perché chi non ha fatto un po' la lascia me, almeno per prendere un po' di aria, capito? Vamo a fare il tempo che almeno andremo a testa a mare, me la fatta. Ah, per esempio l'ombrellone, questo era mai conosciuto a Parusoni. L'ombrellone, lascia il tempo. Adesso vediamo, domani lunedì, c'è un po' di cosette da fare, domani mattina, poi martedì devo andare dal medico Fanfani impegnativa, perché il 10 c'ho, il 9 c'ho la visita di controllo, capito? E allora abbiamo uscito. No, sto uscendo comunque, io sto uscendo, ieri è passato Fabrizio, stamattina lo stesso, siamo visti, poi l'ho impegnato, volevo andare fuori con la famiglia, ma la mattina già sto uscendo, non c'è problema. Ma tu ti farò passeggiare, non venire di collettivi alti, di bio giornale, di poi un attimo di bio caffè in un bar, lo prego, ti passo un'oretta così. Io quando sono qui parlo sono sempre così, a meno che invece in magazzino da me a incominciare a fare qualche lavoretto, non è che mi viene tanto la voglia con il caldo, perché sarebbe più opportuno lavorare se puoi fare qualcosa la mattina, ma fino all'una, l'una e mezza, perché dopo gira il sole e praticamente me ne entra tutto il sole dentro, ma un caldo e non puoi fare nulla, la verità, proprio incomincia a sudare, proprio a scolare acqua. Se già fa bene, ma se generalmente se qualche volta capita che fa la notte, dopo riesci la mattina, devi riposare la mattina perché devi per forza riposare. Se ti svegli verso quell'ora lì per scendertene giù e farti pigliare anche con l'asso, no? O puoi fare quando fai magari la sera, che magari nonostante tutto, magari esci anche alle 11 a mezzanotte, entri all'una. E va bene, così che puoi lavorare, magari farti qualche lavoretto la mattina, impegnarti la mattina magari giù e dopo la sera te ne va a lavorare. E infatti, e vabbè, niente, c'è qualche cosetta da fare, io con Andrea mi ero già organizzato, io praticamente ecco, non c'ero finito, da domani andavo in ferie fino al 15, invece mi rivedi e mi è toccato l'infortunio, voglio vivere. Ma non potevi, vabbè, comunque se non le perdi, perché se è un infortunio così che glittano, non è che solo le perdi, capito? Lo so, però avrei preferito andare in ferie da domani, fino al 15, c'avevo un paio di finestre da farmi, qua a casa, poi devo farmi alcuni lavori sopra il tetto, e invece un po' ci manuta. Vabbè. Pazienza, già lui, non lo voleva, tira campato, piano piano, già ci mettiamo a posto, chi c'è tutti gli affermi che mi cudrimi, capito? Tutte le semi che mi tirano, quelli non mi possono vedere. Lo ci ha detto Gian Paolo. Ma lui parla di, no, già sto più rilento, e lui parla di, hai già sentito, oia, oia. Me lo pulisce adesso, un attimo nulla, mi viene nulla. E anche io vado a bere magari. che in quel Rix Claudio, da Luca qua da Papatango, la modulazione già ti ho sentito qualche altra volta, però non mi sfugge il nome attivo, se me lo ricordi per cortesia. Ma il nome attivo, Gianni già me l'hai detto, ma il nome attivo o solo Gianni? Bombattone, perfetto. Bisogna dire il frigo, vero? Che vedevo se quando lo sento spesso le persone mi dimentico. Allora mi ricrivo. Da dove stai chiacchierando, Gianni? Come ti arrivo? Ti sento benissimo, sei 9, quasi 9 sei da me. E ti dico che questo meter del baracchino qua, lo smitter, è anche un po' avaro, questo qua. Quindi se qualche cosettina in più, forse anche 9 pieno. Sono il trappo, ciao Gianni, buonasera. Buonasera anche a lei, parriero, dai, qua tutto a posto? Alla grande anche a te, Tutto a posto già, anche tu, 9 più. Guardi, super. Tutto a posto, quello che è a posto già, quello che non è a posto lo lasciamo mettere a posto gli altri. Ah, Gianni già la monti? In mezzo a te li prendi. Ah, però io poi da scusami già, poi da faccio tutto qui giusto io. Mi ho guardato con un bambino. Sentiamo però ti sento un po' diversa come voce, ho cambiato il microfono e ho fatto qualche cosa già, può essere? Senti per l'accento, no, adesso già sei tu, già sei tornato a casa, allora, adesso già sei tu, già tranquillo. Aspetta che mi chiamo un amico che è un'altra cosa, aspetta che per riprendere che faccio il break, che sto chiamando un amico che me lo faccio, ma mi piace sapere un'altra stazione. Cambiato Gianni, non sei bomba atomica, tu sei dinamite, cosa bomba atomica è coso, è C4. Avanti, manda liscio, gare liscio, aspettando. Aspettando. Di la vita, è lì che aspettando. Signore Gianlu. Dai Gianni, dimmi. Sì, dai, ti manda quanti io per la praticamente all'ospedale ci ha tre costole fratturate. sono pianto perché ero pensavo che fossi in ascolto, però ho appena acceso 10 secondi fa, un ragno non lo sento. Saluto tutti quelli che mi ascoltano, probabilmente non so già nei chiaramonti perché c'è un scagino di QRM oggi, alto può essere tutto. Io rilancio a Claudio che farà girare. Niente, il così per dire però il 608 spingeva molto di più, il 500 spinge molto di meno e sto anche regolato dietro probabilmente col potenziometro per l'eco, se lo sollevi troppo tende a fischiare quello lì le ripetizioni, perché non è il suo, quello l'ho tolto dall'altra, quello di Vezzoli, perché quello l'hanno aumentato come valore, quindi a un certo punto inizia a innescare, quindi tu l'avrei visto regolandolo, che però va bene con il microfono, quindi mettilo via, al momento ce l'hai un altro microfono per un altro baracco, capito? Scusate un attimo, break, dai, riprendo un secondino per salutare a Fabrizio, ben entrato, ben sentito. Mi devo sentare un attimino che mi stanno chiamando un attimino lassù. Deve essere pronto per il leggero carico prima delle 8, una preparazione. Un secondino ragazzi, dai, il tempo di sistemarmi le cosettine su e faccio richiamata. Avanti Fabrizio. Ok, ciao, ben sentito anche a te, da qua passando e avremo modo di sentirci dopo magari. Dai, riprendi il clap e girare, che io non so chi ascolta e chi non ascolta. Ok, Gianluca, ci riascolta dopo, non ci sono problemi. No, non ho toccato io il 600, o Fabri. Come me l'hai dato, ho abbassato leggermente, ma proprio leggermente lo slider del mic e basta, perché era troppo alto per me, capito? Basta. Tutto lo faccio sentire. Avanti Gianni Chiaramonte per Fabrizio. Ehi, buonasera, dai Fabrizio, qua Gianni ti saluta cordialmente, guarda che mi ascolti, dai. La voglia, c'è un po' di cuore, ma però la voglia più forte oggi, non lo so, non mi ricordo che arrivavi 9 qua. Sembravi vero, lo sai già, meglio oggi, mi stai arrivando bene, dai, complimenti. Perché mi ricordavo che avevi più basso, io non ne guardo mai Smith per la verità, e poi io lo so che sono un po' accercato per queste cose, sento la radio in genere, però stai arrivando, buono il segnale, buono il segnale. Riprendi Gianni, fai girare per uranio, però io sicuramente non lo sento, non so nemmeno dove lo sta modulando. Sì, va dai, faccio girare per uranio, poi ti devo chiedere una cosa. Quasi 9 pieno diciamo più o meno. Oh. un guaio proprio zero, sai cosa vuol dire? Forse mi dà l'impressione che ci sia sotto, ma zero, diciamo zero, col QRM che c'è oggi, zero. Diciamo che più o meno ci pensare e poi ci sentiamo in radio in questi giorni si potrebbe anche attaccare con sinceramente più qua quattro qui sono nel problema, è che non ti conosco, se no l'avrei già fatto, non ti credo, credetemi, io quando ci vai è che non ti conosco, però non ci dovrebbero essere problemi, noi ci fidiamo dalla gente. Non ne conosci bene, quindi, anzi, quasi nulla, e quindi non hai quella confidenza. No, nulla. Magari è sopra Wittino. Quasi tutto. Chiedono a lui, come sono. Mi ha conosciuto, mi sta conoscendo, vede che sono una persona abbastanza affidabile, quindi se vuoi qualche vabbè, qualche cosa. Mi dicevo, cioè. Poi, per il resto, di altri di voi non ho conosciuto nessun altro. Vedi tu, dai, se ci sentiamo in frequenza. Ok, comunque penso che ci possa fare. Va bene, ok. Come stai facendo con questa greca? No. Sapete che ti stavi ascoltando il canale? Uia, siamo la testa in alle nuvole. Sì, dai, ci portiamo adesso. Era stato per entrare a salutare a Claudio, a Fabrizio, Luca, e poi ho detto, ma se sta Fabrizio così glielo dico e vediamo un po'. Niente, dai, ora ci spostiamo, così vi prendete il vostro quartiere e noi ci facciamo altre due chiacchiere e un'altra frequenza, ok? Io ti saluto cordialmente, saluto a Claudio, grazie di tutto, e Luca la portatore sei in ascolto. Ti passo l'antenna a voi, poi vediamo un se riesci a fare i saluti, io chiudo. Ciao ciao! Ok, vai, salutoni e ci sentiamo alle prossime in questi giorni, così poi ci possiamo mettere d'accordo. Riprendi qua per i saluti. Ehi Gianni, dai, già ti vedi così, non ti preoccupare. Va bene, tu inizi a mettere da parte, fai come la formica, così non hai problemi. Già trovo la Fabrizio, vai. Non ho che non mi cambiate idea, perché esce talmente bene con la radio, è talmente nuova che non lo so, se poi ce ne pente, ho già capito. Siccome lo conosco, lui è amante delle cose belle, quella è veramente una bellissima radio, ma non perché ce l'ho io, ce l'hanno un sacco di persone, ma sono delle bellissime radio, poi in particolare quella di Fabrizio nuova, capito? Tutto qua. Facciamo salutare Uranio e poi vi potete spostare, dai. Un saluto Gianni e ci sentiamo alle prossime quando voi siamo qua. Avanti Urania. Okay. in 40 metri dove ascoltare con il 140, ascolti con il 180, se tu fai la prova, trovati un corso, anche con la mano a 50 pali, trovati un corso in 40 metri, ascolta con uno e con l'altro, ti rendi conto con 40 ascolti meglio, capito? È meno rumoroso come ricevitore, inutile. Lo so, sì, beh, su quello c'è un bisso, è una bella macchina, combattimento, una macchinettina per lavorare qua sicuramente, in HF, molto rumoroso, puoi fare qualche cosettina così a livello locale, ma se tu devi fare veramente DX o questione lontananza, hai questi problemi, beh, lo vedo dal digitale, c'è una differenza allucinante. Mentre il 440 è molto più selettivo e silenzioso, vanno bene, cazzo di un fastidio a questo braccio allucinante, dove non mi ha preso anche la bustina, nulla. E quindi è andato tutto bene, voi sentite il microfono, come? La faccio sentire, vabbè, lì ci sono, mi pare, 3 watt, 4 watt, ma già sei vicino, già mi senti, lo faccio sentire così me lo regoli. Yes, fammelo sentire, anche ad Albiera arrivi con 3 watt, chiedo al centro. Sì, no, perché io quello di dietro, ti ripeto, il 600 ho smontato il potenziometro, quello del 500 l'ho messo al 600, che è quello originale, e quindi infatti tu puoi aumentare quanto vuoi, dietro, quello praticamente gli dà le ripetizioni, no? Gli dà le ripetizioni come camera ecco, infatti se vedi c'è quel cacciavitino, e io l'ho regalato così perché mi piaceva così, quello ti dà le ripetizioni, mentre l'altro c'è un potenziometro che è tolto l'ho recuperato e l'ho messo nel 500 e lo stesso l'ho regolato per non fischiare per andare bene a mio orecchio perché le ripetizioni mi piacevano così. Poi ovviamente se ti piacciono diverse le ripetizioni dietro c'hai quanti dietro qua e te lo regoli, ma a me piaceva così, poi sempre che con corrispondente lo regoli meglio. Non ho toccato io per lui, non ho toccato per niente, adesso comunque te lo faccio sentire che stavo attaccando l'antenna. Vai. Io non sono vicino, io non ci parlo mai con i microfoni, sono a una sono abituato con i Kenwood, quindi sono praticamente alla stessa distanza, saranno 30-40 centimetri. Aspetta, non vorrei... Aspetta, vieni avanti, e scontarci fino a 10, va. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aspetta, facciamo l'altra, vorrei che magari c'è con questi baracchini, aspetta che ascolto col baracchino, perché è meglio, ma lo sai, questi baracchini d'acqua magari sono leggermente, quindi vuoi questa radio, tac, lo metti subito, non vorrei, non voglio di cercarti, mi sembra mi semplicemente l'acqua, aspetta che vado un attimino là. Registrato il break, buonasera. Buonasera a Claudio, buonasera a Fabrizio. Allora, Antonio, tutto bene? No, tutto bene, tutto bene. Io ti sento benissimo qua. Mi sto usando il console primo, quello che avevo comprato da Mario, che era senza microfono. Avevo due microfoni da tavolo, un 500 e un 600, che non li funzionava manco uno. E se li ha presi Fabrizio e me li ha sistemati tutti e due. Adesso sto usando l'M600 da tavolo, senza eco però, Fabrizio vuole vedere prima come va. Fabri? Certo, no, non mi sento benissimo io qua, Ma quattro qua stai usando? Allora, vediamo, neanche, 3 watt e mezzo, 3 watt e mezzo. Oh! Guarda, Fabri. Riprendo, che mi ha chiamato mia moglie. Allora, ti dicevo, cosa sto usando là? Cosa sto usando? Il console, te l'ho detto, è l'attacco per il console, quello che hai fatto tu, è l'M600. E c'ho l'attacca, la prima attacca bianca, è in mezzo tra l'1 e lo 0 praticamente. No, è inutile, secondo l'apparecchio che usi, quando usi il cazzo di attacco, devi tirare un po' più, se ti... ho capito, là. Adesso sono consapevole, intanto ti sento una bomba, pari con Kenwood, aumenta anche un pochettino, a vedere, mettiamola per vedere, adesso con quello ti sento meglio, là. Allora, così l'ho messo a 1, come la prima che mi hai fatto abbassare col K, così a 1, alla prima tacchetta. Certo, male che sei qui, si sembra che sei col K, lo sai. Questa modulazione qua sembra con questo baratino, però ovviamente quello sarebbe leggermente da allineare quel console, perché è leggermente spostato, vedo i baratini vanno bene, però se lo ascolti con un coso, se tu ti ascolti per i valtrappoli che giri un po' il buffolo, vedi che sei leggermente spostato. Con la bomba, questo sì che mi sembra modulazione del K. Registrato il break. Fabbricato e quadrato, mi ha 23 canali, mi cosa è Rosalini, ma ragazzi ha 30 anni, non lo so se si può allineare, dare qualche doppiettino, ma è quadrato, c'ha 23 canali, più un canale alfa, capito, 24 canali con le bande laterali, capito? Ho registrato un break, adesso lo facciamo passare e poi mi fai dare appena appena di ecco, o Fabri, ma proprio leggero, giusto per far funzionare questo M600. E così lo lascio stare fermo e quando commuto uso anche questo, perché non c'era microfono, lo stavo usando, capito? Avanti break con la buonasera, Claudio Sparviero in compagnia di Fabrizio e Antonio Bombolo. Grazie Claudio, dai, Giuseppe da questa parte, salutare a tutti, mi rientro. Giuseppe, buonasera, ben ascoltato anche a te, con la speranza che mi ascolti, perché siamo in condizioni precarie, ma non è un problema, penso che già mi ascolti, insomma, anche con pochi watt, l'importante è farsi ascoltare. Ok, allora, microfono per Bombo, poi per Fabrizio, Anto, così aumentiamo appena appena di eco e vediamo come si comporta questo microfono. A te, Antonio. Ciao Giuseppe, ciao a te, sentito. Avanti Fabrizio. Ciao Giuseppe, ben sentito da questa parte Fabrizio. Cazzo, dove sta uscendo una bomba, sta uscendo chiaramente bene, allora vuol dire, sapete cosa che con quella io è talmente selettiva che se si è leggermente ogni tanto, infatti per esempio quando entra Sandro di Porto Torres c'ha un apparecchio che con quello c'è il fuori anche il suo. Però sta uscendo una bomba. se ne vuol dire, non di più. Prova a salutare velocemente, ma non appuntare a vedere cosa succede. Non appunta, aspetta che accendo la luce. Cazzo, ma era accesa, non è attivata. Tu lo aspetta. Aspetta. Invece che da qua se ne è andato, mi ha detto la luce, diciamo proprio con una cicca. Allora Fabri, con la più cordiale buonasera per Giuseppe. Allora Fabri, io mi sono seduto, aspetta, mi sono attratto. Allora, guarda, così è la prima attacca, ecco, alla prima attacca. No, se lo va. Così è la seconda attacca. Troppo, eh. Allora è troppo. Prova la terza. Così è la terza attacca. Vedi la seconda. Così è la seconda come la prima. Bene, ma se non me lo dico come non me la contenuta. Allora, se vuoi eliminarlo, allora si sente. Però la seconda attacca praticamente ecco le senti poco niente, senti questo un po' corrompolo che spinge ancora di più. Fatti un passaggino e poi faccia il bombo che mi sembra che così va bene. Ok, allora così è la prima e la seconda attacca in mezzo. Antonio Bombolo, come mi senti? Ma un po' leggero refermero, tipo la radio mia, dai, tipo questa qua. Tu non me la contenuta, se va bene senza refermero lo togliamo, cosa mi interessa? Allora ti spiego, se tu vuoi una radio tipo il Kenwood, per capirci, puoi però se ci arrivo solo un attimo. No, vedi che è così. Sì, Luca vieni qua, però se vuoi mettere. Se vuoi mettere il reverbero lo metti con il regolatore, se spingi a questa tappa in più se ne facciamo un peso con le varie polizie. Se qui ci colleghi il dicendo che con questo è la radio ultima, non è l'abbinamento questo microfono con questa radio, ma se questo non lo toccare. Va, ho tolto l'eco, non se ne parla più. Aspetta, lasciamo l'eco disinserito e diamo un pochino di potenza, vediamo. Ecco qua, adesso abbiamo dato potenza. Vediamo se è salito il segnale, è salito. Sì, no, non si è andato per niente in distorsione, sto saturando, va benissimo. E ti dico che di tutte le radio che io ti sto sentendo di baracchini, adesso vado così che non c'è molto memoria, però ti dico che questa è una di quelle che mi piace di più. Sarà con quell'abbinamento di microfono e poi ti dico che cosa piace veramente bene. Allora lasciamo stare così, senza ecco e va bene, dai. Antonio Bombolo, va bene adesso? Ha aumentato il segnale? Ah, fammi in fare a far vedere, sei quasi a fondo scala in occhio. Vedi, Fabrizio, colpa di Fabrizio, ma adesso dai un po' di potenza. Allora abbiamo dato un po' di potenza. Sono tutti sotto amplificatori questi baracchini, capito? Basta un giretto e vanno alla grande. Giuseppe, dove sei arrivato? Buonasera di nuovo a te. Mettiamo la macchina dentro la tana e poi riprendiamo da casa. Giuseppe, d'accordo, allora ti aspettiamo, non c'è problema, siamo qua, tranquilli, va bene. Fabrizio, riprenditela. Allora aspetta che stacco nuovamente. Intanto abbiamo capito che questo baracco vecchio funziona anche bene con la W131, lasciamo stare così. Sì, io riprendo e vi ascolto un attimino, che sono col bambino che stava piangendo, non so cosa vuole, lo vedo cadere e poi riprendo. Senti, prendevo la TV, a papà voleva far accedere lui la TV, perché è in punizione che ha fatto morire, allora è in punizione. Va bene, dai, riprendi, comunque un buon abbinamento, va bene, un buon abbinamento, va bene, non lascia questo così e non sbagli. Sarà fatto Fabri, lo sai, io non tocco niente, quando le cose vanno bene, adesso abbiamo anche quelle M500, comunque già le compro un'altra batteria e facciamo c'è problema. Ok. E Antu, ce l'ho vicino qualcosa, cosa devo fare? Ogni tanto è meglio usarlo, no? Sempre, magari potessi io, magari. Ah, c'è un avvenimento strepitoso con quell'amplificatore, veramente, su tutti i baracchini va bene, spinge bene, non distorce, va bene, evidentemente la potenza d'ingresso è anche buona e il bilanciamento, eccetera, l'ispezione, eccetera, va bene, ok, quindi Giuseppe sta mettendo la macchina, il frigorifero. Fabrizio un attimino impegnato col figlio. E tu quanto hai salvato? Ecco, posso dare un controllo? Avanti per un controllo, buonasera. Claudio Spalmiero, Fabrizio Chinigatto e Antonio Bombolo, buonasera. Piccola cordialità, buonasera, no? Ho sentito che tutto funziona bene, volevo dargli un controllo. Nonché qui dalla Nord Italia, nonché Novara, Novara, Nord Italia, coperto dal maltempo. Cordialità, buonasera, nonché qui da Renato. Ok, ciao Renato, buonasera, Novara, ben ascoltato, segnale per te 9 abbondante qua in Sassari città. Noi invece in Sardegna abbiamo un sole stupendo, siamo a 28-30 gradi e mi dispiace che voi a Novara abbiate il brutto tempo. Sì, comunque ti ascolto, Santiago 8-9 Radio 5, gli altri ovviamente sono un pelino più penalizzati, comunque ti ascolto molto bene, vedo che hai funzione. Cappa Renato, guarda, io vado con un baracchino 23 canali, stazione base che è della SBE, SBA si chiama Console Primo, proprio un baracchino di quelli degli anni 70, e il microfono è un Intec M600, capito? Intec M600, quindi proprio roba da fortuna, però funzionano bene, quindi ogni tanto li facciamo andare. Ti passo Antonio Bombolo, vediamo un po' se lo senti. Antonio, vai per Renato in Novara. Qua comunque arriva Santiago di Novara e la radio di 5, non so se mi senti a me. Arena, hai sentito il bombolo? No, negativo, ascolto solo bene te e poi c'è anche un po' di QRM. Ok, dai, detto questo non voglio rovinarvi il vostro quesito, che sento che state parlando tra di voi, Vi saluto e vi cordializzo, grazie e ben sentito e ci ascoltiamo le prossime, ok? Ciao, vai! Ciao Renato, un abbraccio, grazie per essere entrato a salutare. Cordialità a te e famiglia, è un presto a riascoltarci, grazie dei controlli e grazie delle due chiacchiere. A presto, Fabrizio. Fabrizio è impegnato col figlio. A te, Bombolito. Ciao. Se ne capo pure che sto bene, ma vedi che già mi intende. Anto, le cose già si fanno, non ti preoccupare, aspetta, sto controllando qua se tutto sotto controllo, già va bene, non c'è problema. Ma io vedi facevo da Luigi, facevo da 9:25 li facevo con il backup. Ehi, è positivo, dai, io ho staccato, ho rimesso a 3 volte e mezzo. Ma c'è una bella ricezione sto baracco, questo baracchino qua, capito? Avete saputo che anche Gio Maria è all'ospedale, sì? Sì, lo so tutto, mi dispiace. Grazie perché non ci voleva, ma ha detto che comunque ci state prendendo, ho sentito. Io ho chiamato stamattina sul telefonino, però mi ha risposto la figlia che era in ospedale, domani le fanno l'attacco, c'ha 3 costole fratturate e quindi insomma anche lui convalescenza ci picchia. Non ci voleva perché lui è insomma un po' più penalizzato, le coste le sono molto molto delicate, soprattutto fanno un dolore allucinante, danno un dolore allucinante, i movimenti zero proprio, è tutto immobilizzato, mentre io grazie a Dio riesco a muovermi, lui è molto peggio, va bene. E quindi Antonio, non siete andati da nessuna parte? No, negativo, sto facendo cosa a casa, sto facendo non sono andato da nessuna parte. Chiappa chiappa, va bene. Comunque visto il segnale è tornato basso. Ma con questo baracco qua c'è un bel segnale, sei anche più alto rispetto agli altri, sei 9,5. E vabbè, sto anche spingendo, con un apparecchio che già saprebbe dissipato. Ah ecco, positivo, positivo. Grazie, via. Ci vuole sempre Fabrizio, è venuto da... Ma ci avete due microfoni, un peccato, nuovi nuovi. Però tutti mangiati dentro, tutti messi male. Un 500, un 600, e li ha messi tutti e due a posto Fabrizio. E almeno posso usare anche questo, se no per usarlo devo attaccare il toner, attaccarlo. A me mi scuccia, io mi piace avere una radio per ogni cosa, capito? Un microfono per ogni radio, se no una rottura di palle, stare a staccare, a fare, quindi una seccatura. E adesso ci ho messo anche questo, così li abbiamo messi tutti a posto, va? Va bene. Mamma, sta bene, a te sì? Dai, non vai fuori. E ho fatto fuori al gatto. Sì, abbastanza bene. Ieri sera me ne sono uscito così, ho fatto un po' di... una persona che non vedevo a tantissimi anni, più di 10 anni che non la vedevo, e salutare. Ah, ieri sera, ho capito, c'era una festa all'ippodromo, mi pare, qualcosa del genere. Niente, no, io... Ieri me ne sono andato a Porto Torres, è stato bellissimo, una passeggiatina, possiamo mangiare una cosa, insomma, poi sono rientrato che era mezzanotte passate, e ho a nanna, stamattina mi sono alzato verso le 9:30, e sono uscito a prendere un caffè, e c'era anche Fabrizio, abbiamo preso un caffè, due chiacchiere, e poi mi sono rientrato a casa. Io sono sempre vendicosa, e non sempre vendicosa, perché ho un po' di cose arretrate, mi sappo tutto il bagno, e tutte cose. Adesso appena che usciamo da questo casino, vediamo un po' di uscire a fare. Io già non mai sono uscito da mai. Tu, noi puoi stare sempre a casa, hai bisogno anche tu di uscire, di fare, noi puoi stare sempre lì attaccato a casa, capito? Ogni tanto bisogna anche uscire. Capo, un bel di cose da fare c'erano, un bel di cose da fare. Vabbè, pazienza. Sempre da fare c'è, certo, sempre da fare. Quando ti giri a casa, a destra, a sinistra, c'è sempre da fare. Io oramai mi sono rinchiuso in questa stanza e a volte la televisione, il computer per annoiarmi, però adesso costretto a stare così, cosa giù di qua? Poi adesso è anche peggio perché inizia il caldo ed è ancora peggio, se la casa non è fresca è un bel casino. Caffa, Giulia, amare, manco bacione, perché non mi ha bruciato da quello che si è travagliato, allora amare. da Giuseppe da questa parte, speriamo che riuscite almeno a tirarmi fuori, Ciao Giuseppe, buonasera. Io ti posso dire se riesci a tirarmi fuori che sono con 3 watt, ma tu sei 9 più 35 qua, quindi che problemi ci sono? Quattro bianco che gli hanno chiamato, ciao Giuseppe, ti mani chiamato, mamma mia bella. Appa, vai bomboni tranquillo, 9 più 20 qua nella mia modestissima postazione, Claudio. Aspetta, sono orgoglioso allora, felice, 9 più 20 con 3 watt va più che bene. Ottimo per la truppa, no, tu sei molto molto più alto, tu sei 9,35 con picchi positivi, quindi hai un ottimo segnalone. Va bene, va bene. E sto usando questa radio della Buonanima di Mario Mova, non c'era un microfono, come diceva Antonio, me l'ha sistemato Fabrizio. E lo stiamo facendo andare, questo M600, vabbè, l'eco è chiuso, è tutto chiuso. Ecco, Fabrizio lo preferisce così, allora lo lasciamo stare così, già va bene. Tutto bene Giuseppe, sì. Ti stavo dicendo, ma il 12 giugno alla Sinara vieni anche tu. Ma che cosa state combinando? Cosa state combinando voi? Dovrete prendere in uso il servizio medico, e quindi il 12 giugno. Ci siamo anche noi perché praticamente dovrò aprire un po' di roba che abbiamo lasciato chiusa, sarà cinesche e così via, perché lì nel settore di Calareale l'acqua c'è, però giù a Cala d'Oliva, siccome il servizio sanitario, l'ambulatorio è chiuso già da diverso tempo, bisogna andare e mettere a posto tutto. L'ordine di Malta ha colpito ancora. Avete preso tutto, Giuseppe? Aspetta, ottimo servizio quest'anno, Contento Federici allora. Già ho fatto un intervento abbastanza serio l'anno scorso. Infatti c'era anche il trafiletto sul giornale. Diciamo che abbiamo fatto, c'è anche quest'anno, la maratona dell'Asinara. Sono squadre di medici, chirurghi e chi più ne ha più ne metta e niente, fanno questa maratona all'Asinara. E l'anno scorso niente, perché tu parti tranquillo, però devi essere sempre sul chi va là, perché il divertimento si può trasformare in urgenza. E così è stato l'anno scorso. Bianco, per me che io vado a consegnare, riprendo dopo. Ehi, Bomboli, già siamo qua, dai, non ti preoccupare, siamo qua. Cappa, vai tranquillo Bomboli, tanto anch'io mi chiorai. 8:30 a casa, sono stanco come un asino, Bobo. Ehi, dai, io ho sollevato appena appena di eco, poi mi dici se va bene, se c'è appena appena di reverbero. Sentendo a te mi piace la tua modulazione, voglio invitarti, ma non so se ci riesco. Beh, quest'anno, Giuseppe, credo che sia diverso dalle altre volte, perché la postazione è fissa e quindi il CISM ha preso proprio l'esclusiva totale, quindi con servizio dei volontari a turno, con il medico sempre fisso, sempre a turno, ambulanza fissa. E in soccorso mi pare che ci sia anche l'elicottero, quindi credo che sia un servizio organizzato alla grande. Così stavano dicendo, io sono andato alla riunione che hanno fatto proprio per organizzare questa cosa il 12 giugno. Io purtroppo andrò a un braccio, ma devo andare per forza perché mi accompagna un collega e lui non sa dove sono le parti che devono aprire, perché lì c'è una linea che parte appunto da Cala Reale e arriva sino a Cala d'Oliva, e ci sono un po' di saracinesche, un po' di manovre da fare, quindi devo andarci per forza io, ma non perché sia il migliore, ma perché ci ho lavorato più di tutti e quindi riesco a muovermi meglio, e perciò siamo lì. quindi spero che ci sia anche tu, così ci facciamo la buffata che è in programma dal presidente. Gappa. Beh, io guarda, sicuramente ci sarò, perché come responsabile di tutti gli automezzi del gruppo ci dovrei essere senz'altro, perché già me ne hanno accennato la settimana scorsa. E niente, se nel caso ci sono, caspita, alla grande. No, nel caso ci sono, ci devi essere, capito? Quindi sicuramente ci sarai, no, anche perché io stavo organizzando, siccome si va la mattina e credo che si parta da Stintino, credo, non lo so, questo me lo devo ancora confermare, o se in concomitanza con questo evento finalmente la Sarabì la facciamo muovere, perché è sempre ferma al porto, anche per i mezzi, per portare tutto, spero. C'è questo contenzioso con la regione e il comandante non vuole muovere la barca. Pizzagando non la arrestano per interruzione del servizio pubblico. È un personaggio, sono napoletano, è una cosa allucinante, veramente. Non so cosa gli abbia preso. Comunque, a parte quello lì, io volevo organizzare, perché ti ripeto, vado dalla mattina, quindi rientrerò la sera sul tardi. Volevo organizzare un posto lì a Terra d'Oliva, nell'alloggio che c'è, con un'antenna che ce l'ho già, una Grand Green, metterla lì, portare una radio di queste anche basi, o addirittura portare il 140, non lo so, insomma, portare una radio e fare qualche collegamento con la terraferma. Ecco perché te lo sto dicendo, capito? E così magari si mette anche un trafilettino, lo dico al presidente, si mette un trafilettino in concomitanza di questa manifestazione, di questo ingresso, di tutto il baralà, insomma, anche i CB hanno partecipato a questa cosa, ecco, lo so. Vediamo un po', qualcosa la voglio fare, dai. È positivo, quello ben venga sempre, perché un buon collegamento con la terraferma ci vuole, perché noi l'anno scorso abbiamo imbarcato da Porto Torres e abbiamo sbarcato a Cala Reale, e ti dico che lì, riuscendo a mettere qualche trafiletto dove dico io, va bene. Guarda, io non so se tu sei andato a Cala d'Oliva, io l'anno scorso ero all'alloggio proprio lì a Cala d'Oliva, sopra la piazzetta, dove c'era la stazione radio praticamente d'ascolto, cioè, ci sono quelle parabole vecchie grandi, che c'è quella vetrata che va proprio al mare, no? Lì c'è il corpo forestale ancora, ci sono tutti, capito? Quindi se si riuscisse a fare qualcosa del genere lì, ma io credo di non avere problemi perché non ho bisogno di nessun permesso, perché lo faccio come radioamatore, però chiaramente voglio fare anche delle prove con la terraferma a livello CB. E quindi adesso vediamo, come stavo dicendo, se c'eri facevamo insomma una cosa bellina col tuo appoggio. So che c'è anche qualche un altro, credo che ci sia anche, adesso non mi ricordo, ma forse anche qualche un altro che c'ha il baracchino, non so se ti risulta te lì nella tua sede sia qualche un altro che abbia il baracchino, non di Sassari. Probabile di sì. Perché come radioamatori ho chiesto a Federici e non c'è nessuno, praticamente. Lui conosce solo a me già dagli anni che ero con la Turritana, conosce me. Dagli anni, oddio, non era tanto presidente lui, quindi. Dall'anno che io ho lavorato con la Turritana, che lui è passato presidente. Capito? E poi lì, vabbè, lì già c'è Giuseppe Grieco, che è il coordinatore, quindi con lui vediamo di fare qualcosa, anche perché Giuseppe, in tempi che furono a Porto Torres, aveva anche lui il baracchino, perciò gli ho detto se mi faceva fare questa cosa, ma ha detto che non c'era assolutamente nessun problema, senza permessi e contropermessi. Dice, portati la tua attrezzatura, se lo vuoi fare mobile lo fai mobile, se lo metti l'antenna su nella tua postazione e vai tranquillo, non c'è nessun problema. Certo. Tu figurati che noi come ogni anno, anche quest'anno stiamo organizzando il campo scuola per i ragazzi, no? Col coso, anch'io sono la protezione civile. E quest'anno lo stiamo facendo lì in un campo di coso, di Fertilia. Eppure a questi ragazzi bisognerà in una maniera o nell'altra fargli capire il significato dei CB, fargli vedere qualcosa di radio, magari se si riuscisse a piazzare un qualcosa e fare qualche collegamento, perché di sicuro noi abbiamo finanza, Vigili del Fuoco, Esercito, Carabinieri e adesso non mi ricordo chi. E riuscendo a organizzare qualcosa anche noi ci avremmo fatto un figurone di sicuro. Ma Giuseppe, lì se vuoi io ho le prove di sintonia, mi pare che siano a luglio. A luglio, io ne posso parlare con Otto Mancaleone, in prefettura non ho problemi. Non ho problemi, capito? Se si può organizzare qualcosa ben venga. Perché dipende sempre tutto da loro. Prima si occupava la Torfacci, poi da quando andate in pensione la Torfacci, no, ma dottor Mancaleone ha altre cose a cui pensare, nonostante sia il viceprefetto, quindi cosa vi fare? Comunque se voi ne parlo non ci sono problemi, ci sarà anche lui sicuramente il 12, lui già aveva letto, poi non lo so se è cambiato qualcosa, non ne abbiamo di 3 o 4, non lo so, quindi ancora c'è un paio di settimane di tempo e al limite se ho notizie più certe e più sicure ti avviso e dopodiché ci mettiamo d'accordo, Giuseppe, capito? Prego, sul 10. Prego. Registrato il breco. Sì, io direi anche perché con la storia della protezione civile i collegamenti radio sono essenziali, è inutile noi che siamo lì a girarci i pollici e vediamo anche quello che è successo purtroppo su in Emilia. Intradare già questi ragazzi almeno a un'educazione su almeno su come ci si comporta, fargli capire come, a grandi linee, no? come può funzionare una radio in caso di necessità, in caso di calamità naturale, perché facciamo anche delle simulazioni. Sì, questo è Giuseppe, perfetto. Allora mettiamo in moto anche questo e poi ti faccio sapere. Da parte mia c'è la massima disponibilità. Se c'è necessità di qualche radio la posso anche mettere a disposizione sia per la parte VHF e UHF, sono 780 che è libero, che è un base a 220 che opera tranquillamente in V e in U, e poi un decametrico da mettere a disposizione per far vedere l'uso e appunto della radio stessa, capito? Ok, va bene, già ne parliamo comunque, Giuseppe, non ti preoccupare. Infatti noi abbiamo proprio le prove in sintonia con la protezione civile, perché ogni anno si fanno, poi adesso con questo casino che c'è le prefetture sono tutte allerte e quindi hanno necessità di capire se le apparecchiature funzionano, se le antenne funzionano, eccetera eccetera, tutto qua. Giuseppe, Leoncino, a te il mic, buonasera. Ehi, Claudio, lo sai come sto trasmettendo? Con quel baracchino che tu hai visto stamattina in quel posto là. Hai visto, anche quello è sega. La radio è un po' bassina, Giuseppe, ma comunque il segnale è il tuo, Vai perfettamente bene. Giuseppe è tornato, lo senti Giuseppe Leoncino? Positivo, lo sento bene, ne approfitto per salutarlo, ben entrato. Ciao Giuseppe, tornato, buonasera anche a te. No, è un baracchino che ti ho fatto vedere stamattina a Claudio, che è proprio antico antico questo, e Claudio l'ha visto col microfono della Migran, o Giuseppe. Caspita, no, va bene, caspita, perlomeno qui stai arrivando bene, vedo chiaro Giuseppe, alla grande. E K, adesso me, Sergio Claudio ci può fare un lavoretto, glielo lascio e almeno me lo mette a posto. Giuseppe, dire, facciamo un abbinamento microfonico, vediamo una tiratina di collo e poi vedrai che già funziona bene. Oh, Giuseppe Torrata, ti dicevo poc'anzi, ho dato appena appena di eco questo MC100, va bene così o è fastidioso? No, va benissimo, è leggero, molto soft, non è aggressivo, va bene, a me non dà assolutamente fastidio, anzi, ci sta anche bene. Guarda, è un tocco come il tuo, perché il tuo è molto bello, e quindi Fabrizio l'ha dato una... Da due ne voleva fare uno, alla fine li ha riparati tutti e due. Beh, è magico, non c'è niente da fare. C'è una pazienza che non ci vogliono soldi a pagarla, guarda, veramente. Ok. E quindi niente, dai, rimaniamo d'accordo così, Giuseppe. Io adesso sino al 12, anzi prima, perché mi daranno disposizioni proprio definitive prima del 12. Dal momento in cui io so perfettamente com'è l'operato, cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, io devo andare per lavoro, quindi non è che vado per giocare, sicuramente neanche tu. Per organizzare appunto tutto il sistema, che ci sarà da fare un bel lavaggio ai filtri giù a Cala d'Oliva, sopra dove sono le carceri c'è un vascone, sotto c'è un piccolo potabilizzatore, quindi ci sarà sicuramente da far iniziare a far arrivare acqua pulita, cambiare tutto il baravano di Salatore, insomma c'è da fare un bel po' di cose prima di avviare in condotta. E poi vedere se i vascoli sono vuoti, sono pieni, insomma vedere un po' di mettere a posto. Quindi io parto presto, ho la motovedetta da Tintino e tanto la macchina io ce l'ho lì, è sempre ferma tutto l'anno lì la macchina. Prima viaggiavamo, poi c'era sempre problema, un giorno per il brutto tempo, un giorno non partiva il traghetto, balle varie. Allora l'azienda ha deciso di lasciare la macchina lì e quindi la macchina è ferma, però a Fornelli, giù a Fornelli, quindi da Tintino prendo la macchina a Fornelli e poi ti raggiungo a Caraveale sicuramente. E poi ci mettiamo d'accordo. Spero che ci sei, caspita, spero che ci sei, che non ti spostino da qualche altra parte. Ma penso proprio di no, Cla, perché niente, poi qui in verticale ti dirò, è stato aggiornato l'organigramma del gruppo e niente, mi hanno caricato di qualche altra cosina, quindi penso di esserci al 90%. Poi ci aggiorniamo allora in verticale. Io stamattina non t'ho neanche chiamato a prenderci un caffè, intanto sapevo che sicuramente al mare, per una bellissima giornata, ci sono trattenuto un attimino lì a prendere un caffè con Fabrizio a Piazza dei Segni e poi me ne sono rientrato a casa, ero con Giuseppe, abbiamo fatto due chiacchiere, due cose, insomma ho passato la mattinata, ma purtroppo sono tutto fasciato, quindi non posso guidare, non posso allontanare e perciò devo stare in zona Giuseppe, va bene. Leoncino! Ehi, dimmi Cla. E qui della fine ti l'ha dato Nicola? Non è che me l'ha dato, me l'ho preso perché è il mio, questo, capito? È il mio. È suo, però io a lui l'ho lasciato l'altro colonnello, ti ricordi l'Alan 100 Blues digitale, se l'ha piazzato nella barca. Ah, ho capito, avete fatto un tipo cambio, dai. Avete fatto tipo cambio, quindi... Ah, bello quello, un bel baracchino, però cosa c'è a fare? Dalle una bella sistematina ai coperchieti, a quelle a levigare bene, quelle del frontalino, con la striscia del frontalino, ed è un bel baracchino sicuramente. Ma funziona bene, la radio è normale rispetto a quella tua che usi tutti i giorni, però ti posso garantire che stia andando bene. A te Tornado, io adesso a 9 me lo dici, ma voi avete già cenato? Io sì, io ho già cenato, claro, mezza cosa del piatto della pasta asciutta che mi era passata oggi da pranzo, ma me la sono fatta fuori oggi. No, io negativo, negativo, ancora non è stata effettuata la carica, anche perché rientrati, già tu sai, sarò una ventina di minuti qui a casa, quindi mare quasi tutto il giorno, poi stasera portata la bambina a fare un giretto, visto che gli avevo promesso il gelato, e niente, siamo scesi giù verso Porto Torres, mangiato un gelatino, respirati due cose lì al porto, due cose di scarico della Tirrenia e ce ne siamo risaliti. Quindi insomma hai fatto la giornata, dai. Già va bene Giuseppe, già va bene. Anche quello fa parte del baravano, perché poi alla fine cos'è fare? Io sono sceso ieri, però mi ero già organizzato con mio fratello, amici mio fratello eccetera, che sono andati a pescare ieri mattina con la barca, anche loro, e hanno preso un bel po' di pesce da fare fritto, pesce proprio da frittura, e quindi ieri sera alle 7 hanno fatto un padellone grande col formellone, tutti impanati, questi pesci, ma proprio la fine del mondo, freschi freschi, e ci abbiamo fatto una bella mangiata di pesce ieri sera. Ogni tanto ci vuole, adesso ci stiamo organizzando di nuovo per fare una bella mangiata di calamari. Andranno loro perché io ce l'ho un braccio, quindi però quando c'è da mangiare già riesco a muovermi, e Giuseppe, non ti preoccupare, la parte destra è libera, quindi il bicchiere, la forchetta riesco a mantenerla in piedi, vero Leoncini? Cappa, a te già ti può bere l'amico nostro, a me metti un pelocino. mi va di morire, c'è quanto è tuo, quanto è tuo. E poi ci ho messo a parlare con Gabriele, ho detto via tu, vabbè c'era Nico, sta parlando con Gabriele, perché si conoscono, ma a primo impatto non si erano riconosciuti, poi Gabriele gliel'ha detto, quindi insomma sono messi a raccontare quando lui lavorava con Rossi, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo passato la mattinata, ed è come hai detto tu lì, se vai di malumore lì ne esci proprio con un capo ad un buglione, Giuseppe. Capa, te l'ho detto, cla, lì se c'è malumore, entri dentro, alla fine poi te ne esci con il sorriso, perché ti fai quelle risate, qua, che non me la bene a dire, oppure se vuoi andare a prendere polpi, guarda il tuo fucile lì, polpi ne prendi un bel mica. Per carità, guarda, che posto, che posto, torna, che posto, guarda, c'è il fratello di Giuseppe che c'ha un circolo, ma c'è da pisciarsi sotto, ci sono queste persone che non fa, tu se entri che non hai voglia di proprio di far niente, devi per forza discutere, parlare e soprattutto ridere, guarda. È positivo, positivo, allora bisognerà andare a trovarlo e là, questo signorotto. No, si sta veramente da Dio, guarda. Ma no, non è la mia macchina, è impossibile. No, non è la mia, è un'altra macchina sotto. Non sono io perché sto andando con 3 watt, quindi di solito se c'ho qualche watt in più, qualche allarme lo faccio partire, ma non è cosa mia. Va bene, signori, io vi ringrazio per le due chiacchiere, sia a te Giuseppe Tornava, sia a te Giuseppe Leoncino. Saluto Antonio Bombolo se è rientrato, Fabrizio che è in QRX. Se se coincide ci sentiamo dopo, mi hanno chiamato a cena. Se ci siete mi fa piacere. Altrimenti vi auguro un buon inizio settimana per domani e alle prossime per tutti. A te Tornaro, ascolto il finale e poi passo in QRT. Cappala, allora ne approfitto anch'io visto che non ho caricato qua. E mangi un boccone dai e magari poi mi riappoggio due minuti. E ne approfitto per farvi salutare da una signorina al volo che sta andando a mangiare la pappa anche lei. Un secondo solo. Ciao a tutti. Ciao bellissima. Anche a te la buona cena e un bacio grande da Claudio Sparviero. Ok, ciao ciao. Cappa, il Mike al bolioncino, vai, vai. Sì, sì, ti auguro buona carica Giuseppe, buon tutto, salutami la Bardoletta e mandare tanti baci baci da parte mia. Chiena, avanti Bomborino se ci sei. Dai, va bene. Allora, rinnovo i saluti per tutti e ci sentiamo dopo, Giuseppe, se coinciderà, che è pronta la cena e vado a mangiare un boccone. Ci sentiamo dopo, ciao. Piano, Clay, piano, mica non lo puoi fare lo sforzo nel braccio, Piano, vai piano e tranquillo, che poi l'altro braccio, lo sai che ti serve per tutte quante le cose. Ciao, Padre Giorgio, Giuseppe, tranquillo, tranquillo, già, intanto mi, un po' di salata, una bella fettina, per stanotte va bene, quindi piano piano mi metto e me la mangio, vai. Già ci sentiamo dopo, Giuseppe, stammi bene, mi torna la lama e fa quello. Ok, va bene, dai, ciao ciao, ci sentiamo più tardi se coincide, dai, ciao, direttamente per tutti i salutati, cambio, compro e vendo. Ehi, Giuseppe, sentiamo dopo, ciao.